Canto 26 della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 26. Mentre che sì per l'orlo uno innanzi altro ce ne andavamo, spesso il buon maestro diceva: guarda, Giovi, ch'io ti scaltro. Feriami il sole in sull'omero destro, che già, raggiando, tutto l'occidente mutava in bianco aspetto di cilestro. Ed io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma. Eppure, a tanto indizio, vidi molt'ombre andando poner mente. Questa fu la cagion che di inizio loro a parlar di me e cominciarsi a dir: colui non par corpo fittizio. Poi, verso me, quanto potevan farsi, certi si feron, sempre con riguardo di non uscir dove non fossero arsi. O tu che vai, non per esser più tardo, ma forse reverente agli altri dopo, rispondi a me, che in sete d'in fuoco ardo. Né solo a me la tua risposta è uopo, che tutti questi n'hanno maggior sete che d'acqua fredda indo o etiopo. Dinne, com'è che fa di te parete al sol come se tu non fossi ancora di morte entrato dentro dalla rete? Sì, mi parlava un dessi. Ed io mi fora già manifesto, se io non fossi atteso ad altra novità capparsi allora, che per lo mezzo del cammino acceso venia gente col viso incontro a questa, la qual mi fece a rimirar sospeso. Lì veggio d'ogni parte farsi presta ciascun ombra e baciarsi una con una senza restar contenti a breve festa. Così, per entro loro schiera bruna, s'ammusa l'una con l'altra formica, forse a spiar lor via e lor fortuna. Tosto che parton l'accoglienza amica, prima che il primo passo li trascorra, sopra gridar ciascuna s'affatica, la nuova gente: Sodoma e Gomorra! E l'altra: nella vacca entra Pasife, perché il torello a sua lussuria corra. Poi, come gru che le montagne rife volasser parte e parte inver l'arene, queste del gel, quelle del sole schife, l'una gente sen va, l'altra sen viene, e tornan lacrimando a primi canti e dal gridar che più lor si conviene. E raccostarsi a me, come davanti, essi medesmi che m'avean pregato, attenti ad ascoltarne lor sembianti. Io, che due volte avea visto lor grato, incominciai: o anime, sicure d'aver, quando che sia, di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membre mie di là, ma son qui meco, col sangue suo e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco, donne di sopra che n'acquista grazia, perché il mortal pel vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia, tosto divegna, sì che il ciel v'alberghi, che è pien d'amore e più ampio si spazia, ditemi, a ciò che ancor carte ne verghi, chi siete voi e chi è quella turba che se ne va di retro a vostri terghi? Non altrimenti stupido si turba lo montanaro e rimirando ammuta, quando rozzo e salvatico si nurba, che ciascun'ombra fece in sua paruta. Ma poiché furon di stupore scarche, lo qual negli alti cuor tosto s'attuta. «Beato te, che nelle nostre Marche», ricominciò colei che pria ne chiese, «per viver meglio esperienza imbarche. La gente che non vien con noi, offese di ciò perché già cesa trionfando regina contra sé chiamarsi intese. Però si parton sodoma gridando, rimproverando a sé com'hai udito, ed aiutan l'arsura vergognando. Nostro peccato fu ermafrodito, ma perché non osservammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi per noi si legge, quando partiamci, il nome di colei che si imbestiò nell'imbestiate schegge. Or sai i nostri atti e di che fummo rei. Se forse a nome vuoi saper chi semo, tempo non è da dire e non saprei. Farotti ben di me volere scemo. Son Guido Guinicelli e già mi purgo per ben dolermi prima ch'allo stremo. Quali nella tristizia di Licurgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi fec'io, ma non a tanto insurgo. Quando io udì nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior che mai rime d'amore usar dolci e leggiadre, e senza udire dir pensoso andai lunga fiata rimirando lui, né per lo fuoco in la piuma pressai. Poiché di riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me: «Tu lasci tal vestigio, per quel ch'io odo in me è tanto chiaro, che l'ete non può torre né far bigio. Ma se le tue parole or ver giuraro, dimmi, che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro?» Ed io a lui: «Li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro inchiostri. O frate», disse, «questi io ti scerno col dito», e additò uno spirito innanzi, «fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi soverchiò tutti, e lascia dir gli stolti che quel di Lemusì credon cavanzi. A voce più ch'al ver drizzan li volti, e così ferman sua opinione, prima carte o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guittone, di grido in grido, pur lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone. Or, se tu hai sì ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro, nel quale è Cristo abate del collegio, fagli per me un dir di paternostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, ove poter peccar non è più nostro. Poi, forse per dar luogo altrui, secondo che presso avea, disparve per lo fuoco, come per l'acqua al pesce, andando al fondo. Io mi feci al mostrato innanzi un poco, e dissi, ch'al suo nome il mio desire apparecchiava grazioso loco, e cominciò liberamente a dire: «Tamma bellis vostre cortois de man, che io non puis ne vei a vos scoprire. Io sui sarnau, che plore vai cantan con si tost vei la passada folor, et vei giau sen le gior che sperneran. Ara vos prec, per aquella valor che vos guida al som delle scalina, sovegna vos a temps de ma dolor». Poi s'ascose nel foco che li affina. Fine del canto 26.